I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Per giustificare e spiegare il terremoto che ha colpito le borse mondiali e in particolar modo quelle europee ed in particolar modo i titoli bancari europei, c'è chi si rivolge alla cosiddetta spiegazione della tempesta perfetta, ossia il rallentamento dell'economia cinese, delle principali economie emergenti, il crollo del prezzo del petrolio, le tensioni geografiche e politiche dovute all'ISIS e ai flussi migratori e anche l'ennesimo tonfo della Grecia, non solo come listino ma come prospettive economiche. Quello che è certo, sebbene non abbia nessun senso il mal comune mezzo gaudio, è che il tonfo dei titoli bancari riguarda tutta l'area euro e non solo, perché coinvolge anche alcune delle principali banche britanniche. In Italia è vero, il settore bancario ha perso più del 35% da inizio anno, ma cali analoghi, in alcuni casi anche più alti, si registrano nelle principali banche svizzere, il Credit Suisse, in quelle spagnole, francesi e soprattutto nei due colossi tedeschi, Deutsche Bank e Commerzbank, che hanno perso più di un terzo del loro valore. Ma quello che è altrettanto certo è che in questo momento assistiamo a un silenzio assordante da parte delle autorità europee e dei singoli paesi, a partire dalla politica tedesca, sempre pronta a fare dichiarazioni quando si tratta di parlare delle banche italiane, dello Stato della Grecia e anche dei titoli di Stato dei paesi mediterranei. Un silenzio che può celare imbarazzo o, peggio ancora, l'assenza di risposte e strategie d'azioni. Un'incertezza che sottolinea ancora una volta la fragilità politica dell'Unione Europea. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Che qualcosa non sia ancora a regime nello stato di salute dell'economia italiana lo dimostrano i dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia. Uno su tutti, il fatto che i prestiti delle banche al settore privato siano tornati a calare. Significa che l'economia non dispiega tutto il potenziale di cui è capace, che le banche continuano a lesinare denaro alla parte più produttiva del paese. A novembre avevamo tutti salutato positivamente un cambio di direzione, un positivo aumento dello 0,5%, dopo una lunga sfilza peraltro di segni meno. Ma i dati corretti relativi al mese di dicembre dimostrano di nuovo una battuta d'arresto. Spacchettando quell'informazione, però, si vede come a dicembre i prestiti alle famiglie siano comunque cresciuti, e cresciuti ancora dello 0,8%, come peraltro nel mese di novembre, mentre sono quelli alle società non finanziarie a essere diminuiti per l'appunto dello 0,7%, mentre a novembre segnavano un aumento dello 0,2%. C'è un calo anche nella velocità di crescita delle sofferenze bancarie, che era dell'11% a novembre ed è diventato del 9,4% a dicembre. E anche questo è tutto sommato un dato positivo, così come lo è il fatto che crescono del 4% i depositi. Insomma, la situazione economica generale appare comunque in chiaroscuro. È la fotografia di questa Italia a metà del guado che ha intercettato il vento della ripresa ma non riesce ancora a tradurlo in un impetuoso vento di cambiamento. Servono ancora azioni riformatrici per aumentare le liberalizzazioni e le semplificazioni in modo da attrarre investimenti. Purtroppo in questo frangente pesano l'indecisione europea e la vaghezza della sua leadership, e questo lascia il varco agli attacchi della speculazione, che è così potente e pervasiva da annullare ogni piccolo segnale di miglioramento che pure, come si vede, esiste. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.